speak to yourself. But your mama lied to you all this time. She knows as well as you and I. You got to express what is taboo in you. Dunque, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza dopo due settimane di assenza forzata. Ritorna il sottoscritto con Disorder e mercoledì prossimo con prove tecniche di trasmissione. Sito della radio www.ondarossa.info, contatto telefonico storico 0649 1750. Eccoci qua, stiamo mettendo a posto le ultime cose, peraltro abbiamo un problemino con internet qui in radio. Cominciamo con i saluti, Alessandria qui a Roma, Maya in Sardegna. Moschita de Miramara che ci sta ascoltando dall'Olanda, Alberto Clipper, Gianluca Pecuzzi, Tabula Rasa, Cortina d'Ampezzo. Abbiamo naturalmente Francesco Cornello in quel di Bergamo. Serena qui a Roma. Simone Scalese di Audio Chaos, la New Wave calabrese, Dez Carlo da Boston, Cecilia Miradoli di Pindar, Davide Mastrullo di Canglore, il medico della peste, Giulia qui a Roma, Mariano Mirdia in quel di Berlino, Valerio Michetti e Alessandra Bersiani della Grazia Obliqua, Lucia Cagliazza dall'Upsi, Rosa La Vita, Nicola Locci di Stigmate e Hexagonal. Si va ad iniziare, lo facciamo come con un progetto con il quale avevamo chiuso l'ultima puntata di Disorder ormai ad inizio marzo, e sto parlando dei Ladder Clawfing, un progetto che proviene dalle parti qui di Roma, dell'Interland romano, con questo 4 tracce dal titolo The Man Who Died Twice, che si dipana e sviluppa tra IDM e Ambient. E allora ci andiamo a gustare le tracce conclusive dal nome The Man Who Did Twice, appunto la title track, e la conclusiva Only Light Moves. Thank you. queste erano le evanescenze di questo progetto dell'Adler Clawfing, progetto degli intorni qui di Roma, come ho già detto, che risente della, evidentemente, della scuola Warp Music, ma non solo. Chi si fa la domanda è il perché non si tagghi, come ho già detto qui, abbiamo problemi con internet, quindi ce la stiamo cavando con i mezzi personali, che però, e lo scopro proprio ora, per esempio Bandcamp non permette di copia e incollare link specifici su pagina specifica, e quindi lo faremo con altre fonti, ma con per quanto riguarda Bandcamp per esempio ci è impossibile, e quindi i più attenti alle orecchie possono andarsi a cercare questo The Ladder Clawfing. Se ancora si è interessati, si possono andare nelle puntate precedenti del programma, dove c'è anche il nome che si può leggere sulle vari podcast, ma dati il giorno successivo. Saluto Enrico Ponzoni di Sokun Shibutsu Project, che suonerà insieme a Massimo Mascheroni il 14 aprile qui a Roma. Mauro qui a Roma sempre, Alessandro Gamba di Mountain Difference. Isetual a Milano. Mi fa piacere che in concomitanza con, diciamo, il mio ritorno qui su queste frequenze ci sia anche parecchia popolazione connessa e all'ascolto di Disorder per oggi 29 marzo, anzi 28 marzo del 2022. Andiamo avanti e ce ne andiamo negli Stati Uniti di Marshall Cantrell, anche lui l'avevamo lasciato 3 settimane fa, con Places We Think We Know, un album molto particolare, un po' più in sospensione, molto più debitore dei suoni per esempio neoclassici di In The Nursery, e quindi una dimensione molto anomala per Sean McBride. Lo constatiamo con Schwedender Bestand e Total Forgetting. Marshall Cantarell, or dunque Place We Think We Know, ultima fatica per Sean McBride, apprezzato anche come Xino and Oaklander, anche in compagnia di relativa voce femminile. Ringrazio Nicola Locci che mi è venuto in soccorso nel caso della ricerca del link su Bandcamp, cosa che lo invito a fare di nuovo se vuole, nel caso del prossimo artista che ci andiamo ad ascoltare, che si chiamerà John Numa, peraltro figlio di Eloquence Recycle. Vado anche a salutare Gustavo qui a Roma. Gustavo è di origine, credo, sudamericana, e per cui mi invita a una cosina che in genere non succede spesso da queste parti, sia perché io non uso lo spagnolo, verso il quale ho una ignoranza profonda, per cui vado a salutare un'altra persona insieme a Gustavo, proprio spagnola. Saludos de Gustavo para Karen Pérez. Gracias. Karen Pérez, dunque, all'ascolto anche lei, di passaggio qui a Roma. Il fatto che poi adesso manderemo John Numa da Elements mi dà anche il là per una piccola, diciamo, comunicazione interna che riguarda lo stesso H501L, nel senso che il sottoscritto ogni 15 giorni più o meno parteciperà al flusso di Musica Macchina in onda ogni sabato dalle 21 alle 23, e abbiamo iniziato lo scorso sabato con il parlare della una grossa esperienza degli anni 80-90 che si chiamava KK di Anversa, una etichetta molto interessante che produsse molti artisti dai Frontline Assembly, NAMB e tanti tanti altri che ci ascolteremo pian pianino di sabato. Musica Macchina in onda ogni sabato, dunque, dalle 21 alle 23. Torniamo qui, torniamo a Disorder. E torniamo per l'appunto a John Numa, che è rintracciabile soltanto su Bandcamp, quindi i volenterosi se lo vanno a cercare e eventualmente lo linkano anche sulla chiacchierata che stiamo facendo tramite Facebook. Da Elements ci andremo ad ascoltare Hair e Hurt. Elements sono i quattro elementi, ovviamente, e questa sera ci ascoltiamo l'aria e la terra. Let's put that, about a man, with a little help from science, who silently projects inside a dream, sleeping person. Okay, let's pretend that. Then pretend that once inside the dream, it would become an active